I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. A poche ore dal maxi blitz che ha sgominato l'andrangheta infiltrata nel tessuto economico dell'Emilia-Romagna, è utile riflettere anche sulle iniziative che premiano le imprese oneste. Una di queste è il cosiddetto rating di legalità, una classificazione predisposta da un osservatorio congiunto dell'antitrust e dell'agenzia anticorruzione, che attribuisce alle imprese che lo chiedono da 1 a 3 stelle di merito, in base ad alcuni requisiti che vanno dall'assenza di precedenti penali o tributari, naturalmente, fino alla tracciabilità dei pagamenti. In un anno, come scriviamo oggi sul Sole 24 Ore che trovate in edicola, le domande di certificazione sono raddoppiate, sono ormai 544, numeri ancora piccoli ma in fortissima ascesa. Per metà di queste domande le autorità hanno già deliberato e ne sono state bocciate 12. Per lo più, le aziende che chiedono il certificato di legalità sono imprese con un fatturato tra i 2 e i 50 milioni annui e sono equamente distribuite tra nord, centro e sud. Il bollino blu certificato da Antitrust e Authority Anticorruzione consente di aumentare il proprio punteggio in molte delle gare pubbliche di appalto e non è un caso che la stragrande maggioranza delle imprese che chiedono proprio il certificato provenga da settori quali l'edilizia, i trasporti e la raccolta di rifiuti, che naturalmente hanno a che fare maggiormente con le commesse pubbliche. È una scelta importante perché per una volta dà un segno tangibile che il rispetto delle regole paga e soprattutto che l'onestà, oltre a essere un naturale obbligo morale, diventa anche un vantaggio economico in un paese che, tra l'altro, nelle classifiche internazionali di Transparency sulla corruzione è al primo posto in Europa. Il fatto che nelle gare pubbliche il bollino blu di legalità sia diventato un titolo preferenziale è importantissimo. Ora sarebbe bene che anche le banche ne prendessero atto e lo utilizzassero per concedere con più facilità i finanziamenti alle imprese più virtuose. Purtroppo però finora allo sportello la virtù non ha ancora corso. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Alessandro Plateroti. L'Istat ci ha detto che le retribuzioni continuano a non crescere o in alcuni casi addirittura a diminuire. Che cosa sta succedendo in Italia? In Italia prosegue questo trend in cui le imprese, vuoi per i problemi di competitività, vuoi per i problemi di costo del lavoro, vuoi per i problemi soprattutto che sono stati legati alla crisi internazionale, non sono in grado di poter far crescere le retribuzioni così come l'Italia ne avrebbe bisogno. C'è un fatto positivo, l'Istat ci ha raccontato anche che la fiducia degli italiani sta salendo in gennaio, non solo quella delle famiglie, ma soprattutto quella delle imprese. A chi dobbiamo dire grazie? Certamente lo scenario politico italiano non è tale da crearci tanta fiducia, probabilmente è dovuto alle grandi manovre che sono in corso in Europa per rianimare l'economia europea. La manovra di Draghi sull'allentamento quantitativo, questi famosi 1.100 miliardi che andranno all'economia e tutte le stime degli istituti di ricerca che ci raccontano gli effetti positivi che avremo sull'economia italiana sono probabilmente quel cerino che ha riacceso la fiamma della speranza in tante famiglie. Sarà però importante che cosa? Che l'Italia continui a mantenersi su quel sentiero di serietà e di impegno, non tanto di rigore, quanto soprattutto quello di far dimostrare che la nostra capacità di poterci riadeguare alle caratteristiche del mondo, a quelle dell'economia, a quella dell'Europa, è tale che giustifichi anche in Europa un cambio di passo. Noi non siamo la Grecia, non chiediamo la cancellazione del debito. Quello che però è importante è che l'Europa capisca che senza uno sforzo comune, paesi come l'Italia o la Spagna potrebbero essere proprio quel serbatoio di scontro, di polemica e di tensione che fa saltare l'Europa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.